Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. È tornato a trovarci Stefano Corgnati, ricercatore di fisica ambientale al Politecnico di Torino, con il quale abbiamo già parlato di serre bioclimatiche e di verde parietale. Intanto buonasera Corgnati. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, questa sera noi vogliamo completare un po' la nostra panoramica sull'uso del verde nella termoregolazione degli edifici, occupandoci di due tipologie rimaste un po', diciamo, fuori dalla nostra analisi fin qui, ovvero i giardini pensili e i tetti verdi. Io direi, Corgnati, di iniziare proprio a spiegare questa prima distinzione basilare. Sì, i tetti verdi sono dei veri e propri manti verdi vegetali che costituiscono l'ultima parte di una copertura di un edificio e che quindi possiamo considerare come un elemento che va a sostituire il tetto tradizionale, che in questo caso quindi è formato da una superficie verde estesa che si caratterizza poi con delle possibili differenti specie di verde. Quindi siamo di fronte anche al classico tetto a falde inclinate, che nel momento in cui lo si guarda, invece di presentare dei coppi o delle tegole, presenta un bel praticello. Esattamente, può essere sia a falde, sia ancora meglio, nella versione ancora più tradizionale, un tetto piano. Comunque tutte le due configurazioni sono possibili. C'è poi l'aspetto estremo di questa visione del verde in copertura, che è caratterizzato dai giardini pensili, che sono invece dei veri e propri giardini che comportano la presenza di piante specifiche, molto legate in questo caso alle attenzioni e alle esigenze del fruitore finale. Quindi diciamo che i tetti verdi hanno strettamente una funzione di protezione e i giardini pensili sono anche uno spazio usufruibile. Il classico terrazzo che troviamo per esempio in cima al condominio, che d'estate è invivibile di solito perché è arroventato dal sole, invece può diventare uno spazio estremamente interessante. Proviamo ad entrare un po' più nel dettaglio. Che tipo di attenzioni richiedono queste coperture? Sì, le coperture bisogna subito sottolineare che si dividono sostanzialmente in due grandi categorie. Esistono i cosiddetti tetti verdi estensivi, che hanno un manto superficiale che ha un nome molto specifico, si chiama sedum, che ha una caratteristica, è costituito da specie vegetali che non richiedono sostanzialmente alcuna manutenzione. Quindi scelta ad hoc. Né particolare cura manutentiva, ma neanche particolare irrigazione. Quindi esiste un autosostentamento sul ciclo annuale della specie vegetale. Invece quello che noi consideriamo come un manto verde classico, il classico prato verde, è denominato in gergo tecnico un verde di tipo intensivo. Ovviamente questo, come ben noto, richiede tutta l'adeguata cura in funzione della specie di verde che è stata adottata e anche una strategia di irrigazione. Su cosa appoggiano questi giardini o tetti? C'è un substrato particolare? Sì. Esiste una vera e propria industrializzazione di prodotto, quindi ci sono aziende che di consolidata esperienza che ormai posano in opera questa tecnologia verde. Sostanzialmente però tutte queste tecnologie hanno una stratigrafia che è ben definita, cioè un manto di copertura che è caratteristico della scelta di verde, che quindi ospita le specie che abbiamo detto possono essere diverse. Poi la parte termicamente più significativa, cioè la parte legata al terriccio, che ha uno strato minimo di circa 8 cm nel caso di utilizzo con sedum. Ovviamente questo può aumentare fino ad estremi, anche sopra il mezzo metro, quando abbiamo dei verdi pensili con vere e proprie piante che devono radicarsi. Certo. Poi abbiamo una parte sottostante formata da cosiddetto tessuto non tessuto, che ha una funzione anche stabilizzante rispetto alla gestione dell'acqua, e poi lo strato drenante dell'acqua e infine lo strato impermeabilizzante, che rende separata la parte di costruzione tradizionale con la parte di tetto verde. Ecco, ci sono problemi di peso? Problemi di peso sì, ovviamente con dimensioni di terriccio ridotto, cioè gli 8 centimetri, qualsiasi costruzione lo riesce a sostenere, è chiaro che invece le solette devono essere rinforzate nel momento in cui vogliamo avere dei giardini pensili dedicati alla presenza di particolari specie arboree. Abbiamo già parlato in passato di quali sono i vantaggi in termini energetici che offrono questo tipo di coperture. Il terreno fa propriamente da cappotto e poi ci sono i processi di evotraspirazione delle piante che regolano gli scambi di umidità e quindi insomma si ha un meccanismo estremamente sofisticato di termoregolazione. Quanto si paga per avere insomma questo servizio? Come ordine di grandezza, un verde estensivo posato ha un costo che indicativamente è variabile tra i 50 e i 65 euro al metro quadro. Uh-huh. Un verde intensivo raggiunge anche valori tra gli 80 e i 120 euro al metro quadro, i veri e propri giardini pensili valori superiori che dipendono esclusivamente dal fatto di voler mettere in campo determinate specie arboree. Ecco, diciamo che questi costi coprono sia, come dire, i materiali, sia la manodopera, sia le piante, insomma, appunto, che bisogna. Esatto. Grazie per averci seguito fin qui. Domani parliamo di certificazione energetica degli edifici. Buona serata a tutti da Maurizio Melis.